Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma quando è lei che ti staccate il frigidero, costa aspetti quest'inverno su che vedeste? Diventi un fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovate stanchi morti e sue. E non ti pensi a roba che te da parte mi tiro e vei facendo me. Se te va mai ti do via caccia la via, quando torna da campagna ti modici un po'. Troneggia nelle nostre cucine il monolite bianco colorato dalla cui pancia proviamo ogni giorno a tirare fuori qualche buona idea per mettere, coniugare pancia e tavola. È il frigorifero, è l'elettrodomestico per eccellenza, è una presenza irrinunciabile, rassicurante. Noi guardiamo lui, ma lui ci rispecchia e racconta non solo che cosa mangiamo, ma soprattutto racconta chi siamo, cosa ci piace, cosa non ci piace, se siamo attenti, distratti, a dieta, all'ingrasso, se siamo fast food o slow food, se lasciamo al loro destino barattoli, tubetti, cespi di insalata, o se controlliamo le date di scadenza come le rughe sul nostro viso. Proprio come in un armadio c'è spazio per tutto, e dalla bevande fresca alle creme di bellezza, dall'insalata alla colla, dal pesce alla biancheria, magari da indossare ancora più fresca di bucato. Per questo oggi, cari amici, abbiamo pensato di parlare di lui, del nostro frigorifero, di che cosa ci teniamo dentro e di che cosa gli appiccichiamo fuori. Post-it, messaggini, calamite o sopra, vasetti, chiave, fotografie. Insomma, fra tutti gli elettrodomestici, il frigorifero è quello più umano. Conserva, nasconde, offre, stuzzica, suggerisce, ispira. È molto che non lo vede. Non è tanto. Certo che è bello grande, né? E anche ben tenuto. Pensi che non ha ancora 12 mesi? Ah. E sapesse che è acqua gelida, che fa? Ne vuole un po'? No, no, no, per la carità. Non si... Ma no, si figuri. Avete sentito una splendida Monica Vitti nel film Le coppie, diretta da Mario Monicelli. Allora aprite, scattate, inviate oppure mandate a memoria e chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. Che cosa ci tenete? Che cosa non manca mai? Che cosa non riuscite a buttare via? E che cosa dimenticate sempre di metterci dentro? In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. È molto divertente questa idea del frigorifero, perché in effetti è uno strumento eccezionale per capire lo stile alimentare di una persona, direi proprio lo stile di vita, tanto che spesso io non chiedo ai miei pazienti cosa mangiano, ma proprio cosa tengono nel frigo, perché è una domanda più immediata e più diretta, e lì vengono fuori le sorprese, la salsa che uno non si ricorda mai di dichiarare, o quante verdure entrano in casa, o addirittura se il frigo rimane completamente vuoto, come spesso succede, che sarà indizio che la persona deve andare a mangiare fuori sempre perché non tiene a casa nulla, no? Allora possiamo anche chiedere proprio ai nostri ascoltatori di fare una foto del loro frigo, ne selezioniamo qualcuna e li aiutiamo a riorganizzarlo meglio. Mi piace. Se loro ci mandano la loro foto, ce la postano sulla nostra pagina Facebook, cominciamo a ricostruire questa presenza casalinga in modo più salutare e corretto. Quindi lei butterà un occhio nel nostro frigorifero e entrerà virtualmente nel frigorifero di un paio magari dei nostri ascoltatori, dandogli una mano proprio a trasformarlo in un frigorifero nutrigenomico. Esatto. È difficile? No, non credo che sia difficile. Ci sono alcune accortezze da tenere in considerazione, ma insomma io mi sono già fatto un po' di esperienza sull'analisi dei frigoriferi. La sentiremo tra poco. Allora, è vero, lei se la ride perché il frigorifero rivela di noi, delle nostre abitudini culinarie e non solo, è però uno spazio privato, e per alcuni mostrare il frigorifero è un po' come mostrarsi in mutande o senza trucco, una cosa del genere. In linea con noi la dottoressa Sara Viola, medico e psicoterapeuta. Dottoressa Viola, buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dottoressa Viola, il frigorifero è un elettrodomestico intimo. Assolutamente, assolutamente. Ci sono persone che ti fanno, con le quali magari riesci anche a vivere nel weekend, passare qualche ora con loro, la sera, essere in intimità profonda, ma che non ti farebbero mai vedere quello che tengono nel frigorifero. Il frigorifero è un linguaggio del tutto individuale e del tutto personale. Dottoressa, noi ci faremo aiutare dal dottor Ongaro a capire che cosa mettere che cosa sostituire, che cosa togliere dal nostro frigorifero, ma anche pensando a che cosa teniamo dentro, alla disposizione, all'ordine con cui mettiamo a posto i vari prodotti, lei riuscirà a tratteggiare una sorta di profilo psico? Direi che se riuscissi a mettere il naso nel frigorifero dei miei pazienti, potrei qualche volta addirittura evitare la somministrazione di qualche test proiettivo, saprei di loro molto di più. Ci dia qualche esempio, in modo che i nostri ascoltatori possano in qualche modo riconoscersi e chiamare l'800 24 00 24. Questo è un po', no, la chiave d'accesso per aprire il nostro frigorifero. Allora, il più facile è il frigorifero dell'ossessivo. Il frigorifero dell'ossessivo è ordinatissimo, sempre fornito di tutto, non manca nulla, i cibi sono freschi, nulla di scaduto, tutto diviso per scomparti a seconda della temperatura ottimale di conservazione. Non è detto che poi l'ossessivo si nutra bene, l'importante per lui è avere il frigorifero in ordine. Viceversa c'è il frigorifero del goloso. Il frigorifero del goloso è pieno di tutto, nemmeno lui sa più che cosa ci sia nel suo frigorifero, ci sono stratificazioni, direi, di epoche diverse, ma c'è cibo in quantità di tutti i tipi, sempre a disposizione, non sempre chiaramente fresco e ben tenuto, l'importante è abbondare. Poi c'è il frigorifero del salutista, dove naturalmente ci sono solo verdura, frutta, cereali, formaggi light, tutto quello che fa bene alla salute. In qualche caso il salutista ha poi invece la dispensa piena di merendine, patatine fritte per i momenti in cui la pulsione è troppo forte. E poi ci sono i frigoriferi separati, nel senso che ci sono coppie o anche famiglie in cui ciascuno ha il suo ripiano, quindi c'è il ghiotto pieno di salumi e formaggi, magari per il capofamiglia, la moglie che invece è molto più attenta alla linea, i figli che sono più, diciamo, trasgressivi ma sulle cose spicce, immediatamente pronte, i ragazzi amano il kebab, amano la piada, quella che loro chiamano la piadina imbottita, cioè la famiglia divisa per scompartimenti nel frigorifero. E poi ci sono i piccoli, che sono quelli ai quali bisognerebbe dare un po' più attenzione, perché non esiste il frigorifero per i piccoli. I piccoli accedono al cibo come vogliono e non sempre nel modo corretto. Quindi, dottoressa Viola, famiglia che vai, frigo che trovi. Assolutamente sì. C'è anche l'ultimo frigorifero che mi viene in mente, il frigorifero mortificato, cioè quello di chi o non ha tempo di fare la spesa o appositamente tiene il frigorifero vuoto per non cadere in tentazione, però come diceva prima il nutrizionista, poi in realtà esce a mangiare e cede a qualsiasi tipo di offerta di mercato. Allora raccontatemi il vostro frigorifero, postate la foto sul nostro profilo Facebook 800 24 00 24, se volete raccontarcelo in diretta e approfittare dei nostri esperti per farvi dare una mano. Intanto, a proposito di famiglia che vai, frigo che trovi, abbiamo in linea con noi Ian Brazzeni, fotografa che ha realizzato proprio una mostra che riporta lo stesso titolo, Famiglia che vai, frigo che trovi. Ciao Ambra, benvenuta. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ambra, tu sei andata a guardare proprio dentro il frigorifero degli italiani. Esatto, sì, proprio così. Ho fatto un atto voyeuristico, forse il più intimo, perché farsi guardare nel frigorifero nasconde un po' tutta la tua personalità, quindi la gente era sempre un po' sospetta, forse è sporco, sei sicura che vuoi guardare oggi? Io sì, aprivo e ho guardato dentro al frigo di più di 100 famiglie italiane. Senti, che cosa hai imparato dal frigorifero degli italiani? Guarda, ho imparato che intanto sinceramente alla fine abbiamo ancora, nella maggior parte dei casi, dei bei frigoriferi, nel senso che comunque abbiamo un'alimentazione abbastanza sana, sempre era presente frutta e verdura, e quindi insomma sono stata per un pochino in America e non possiamo di certo paragonare i nostri frighi ai loro, grazie a Dio. E poi ho imparato che comunque, cioè, veramente il frigorifero rispecchia lo stile di vita delle persone, perché comunque è inevitabile che, cioè, chi sei lo butti dentro al tuo frigorifero, e quindi, appunto, come sentivo prima in diretta, se sei una persona che non ha assolutamente tempo, inevitabilmente il frigo sarà abbastanza vuoto, e quindi ho visto frigo di manager e single in incallita carriera con frigo con dentro due snack e un quintale di bevande alcoliche, e poi invece famiglie numerose con tanti bambini in cui ci deve sempre essere qualcosa nel frigorifero perché il bambino giustamente vuole mangiare bene. Abbiamo chiesto ad Ambra Zeni di mandarci la foto del suo frigorifero, quindi ci siamo un po' vendicati. La potete vedere sul nostro profilo Facebook e direi che è un frigorifero d'autore, che commenteremo poi insieme al dottor Ongaro. Grazie ad Ambra Zeni per essere stata con noi. Grazie, grazie mille a voi e buona giornata. Buona giornata e buon frigo. Grazie, grazie. E adesso noi andiamo a vedere il frigorifero di alcuni conduttori di Radio 24. Il primo frigorifero che andiamo ad aprire è quello di Marta Cagnola, che è qui davanti a me. Ciao Marta! Buongiorno, e mi vergogno molto perché quando ieri mi avete detto, mi avete mandato una mail Laura Faggin con scritto fotografami il tuo frigo, ho detto vabbè, apro e fotografo. Poi mi sono detta, ma che vergogna, perché il mio frigo è un po' particolare. Tu cosa hai pensato quando l'hai visto? Un frigorifero di Marta, proprio, c'ha proprio il tuo nome. Vuoi raccontarcelo? E il dottor Ongaro e la dottoressa Viola riusciranno poi a tracciarti una sorta di profilo, nutri-psicologico. Allora, aspetta che recupero la foto perché ce l'ho fatta sul mio iPad. Allora, cetriolini che ho confessato sono lì da un po'. Poi ho del latte 0,1% di grassi, ho dello yogurt 1,5% di grassi, ho del pane di segale, ho del formaggio 0% di grassi che uso per cucinare tutto, dei fiocchi di latte 3% di grassi, un uovo, perché uno no, perché la premessa è io che non, per non cadere in tentazione. Esatto, no, perché io compro giorno per giorno perché odio buttare il cibo e quindi compro poco alla volta. Ieri avevo fatto un omelette e quindi mi era rimasto un uovo e una bottiglia di bollicine perché ci deve essere sempre in frigo. Questo è il mio frigo. Dottor Ongaro. È un frigo interessante, devo dire. Nel senso che mi viene in mente un frigo di un viaggio non compiuto fino in fondo, se posso dire la mia espressione in confronto al discorso della nutrigenomica, della nutrizione, cioè è pieno di prodotti che dimostrano un tentativo di andare verso una nutrizione più attenta e più sana, però è anche un frigo che dimostra che ci si è un po' tuffati a capofitto sull'offerta di cibi impacchettati e industrializzati. Allora, però devo dirle una cosa, dottore. Io mangio molta frutta e molta verdura, però... Stavo arrivando a quello. Ecco, le spiego. Secondo me è parziale questa cosa. Ecco, io sono cresciuta con una nonna brianzola che mi ha insegnato a non buttare via. Io non sono capace di buttare via il cibo. Sì. Quindi io lo compro giorno per giorno. Io sono capace di comprarmi un po' di insalata e di mangiarmela, non riesco a tenere le cose in frigo. Devo dire, dottore, c'è. Io ce le ho, confesso, esatto, ci sono. Esatto. Ma infatti stavo arrivando anch'io a quella conclusione, secondo me è una foto un po' parziale del panorama completo. E se così è, devo dire che allora insomma è un frigo che possiamo anche promuovere in questo senso, no? Beh, devo dire che io sono a dieta, Beh, Nicoletta lo sa, diciamo che sono stata un po' costretta a farlo, sono stata brava per un po' di tempo e adesso sto cercando di mantenere le buone abitudini. Ok. Dottoressa Viola, questo frigorifero è bellissimo, Nicoletta, perché è un frigorifero bravo, che sta facendo il suo dovere, che dice, hai visto come ce la sto mettendo tutta, io non cedo, sono ligio ai comandi della dieta, però aspetto, sono qui che aspetto con le bollicine di poter condividere questa mia bravura e magari anche altro con qualcuno che dovesse venire a trovarmi. È un frigorifero veramente, al contrario di quello che potrebbe sembrare, invitante. Ma quanto sono bravi i tuoi esperti? Sì, ma abbiamo parlato prima con loro, abbiamo detto mi raccomando viene Marta. Portatemela bene perché è già un po' debole che mangia poco. Mi piacerebbe anche capire, Marta, se tu tieni qualche cosa che non è strettamente alimentare nel frigorifero. Io ho sempre le matite per il trucco. Allora, per un certo periodo, per qualche mese, ho vissuto a casa di mio padre perché io stavo ristrutturando casa mia. E una mattina lui è arrivato preoccupatissimo perché mi ha detto: Marta, ma ci sono dei pastelli colorati in frigorifero. E lui pensava che io fossi impazzita, invece gli ho dovuto spiegare che in realtà io tengo le matite per il trucco perché vanno tenute in fresco quando bisogna conservarle. Quindi potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori che cosa tengono di altro nel frigorifero, come un po' insegna Marilyn. Io credo che il trucco sia beh, poi non so, magari d'estate, ecco, appunto. Adesso. Qualcosa di più intimo. Grazie a Marta Cagnola per essere stata con noi. Il suo frigorifero potete vederlo sul nostro profilo Facebook. Che imbarazzo. Lasciatevi adesso ispirare. Lo twitto anche. Dai, così. Twittalo. Grazie a Marta. Andiamo a Flora, che ci chiama dalla provincia di Pordenone. Vediamo se di Padova. L'hanno spedita a Pordenone, ma la facciamo ritornare subito a Padova. Flora. Buongiorno. Grazie anche per avermi ricontattata. Allora, se vi do così un chiaro aspetto del mio frigo, che direi che è alquanto ordinato, è tutto così sezionato dai vari ripiani. Allora, se io parto dall'alto a scendere, troviamo i latticini, quindi yogurt magro e alla frutta, qualche pezzo di formaggio, in particolar modo il parmigiano. Ci sono poi delle verdure da cuocere, quindi crude oppure delle verdure rinsalate, ecco, le uova, il salmone, frutta, le bibite quali acqua, una bottiglia di vino bianco. Quello non manca mai, come a Marta. Vino bianco fresco e poi limoni, ecco, i limoni, l'aglio nella parte più in basso. Flora, il suo frigorifero la rappresenta? Secondo me sì. Secondo me sì, abbastanza. Le dico, io lavoro in un mondo che è il mondo dell'estetica, per cui mi occupo così di cosmesi, se vogliamo, e lavoro con gli istituti di bellezza e le spa, forse è un po' la cultura del lavoro che una persona anche fa o come si vuole sentire, forse magari io sono anche un igienista di mio, mi piace così stare in un mondo ordinato, abbastanza curato e pulito, forse anche quello che rispecchia il mio stile. Flora, ma è vero che è meglio tenere ad esempio le creme contorno occhi in frigorifero? No. In questo senso direi proprio di no, a meno che non sia una sostanza così a rischio di alterazione, ma non dovrebbe sussistere, dovrebbe essere soggetta oppure essere posizionata in un posto che va surriscaldato. Allora in quel caso ha senso spostare il prodotto e avvicinare un ambiente un po' più fresco, che non sarebbe il frigo, eh? Non sarebbe il frigo, i cosmetici dovrebbero restare a temperatura ambiente e questo significa né troppo caldo né troppo freddo. Cosa mangerà Flora oggi? Che cosa tirerà fuori dal suo frigorifero? Sono un agente di commercio, per cui io ho un frigo così, sì, ordinato, poi durante il giorno quando sto fuori mangio delle cose abbastanza veloci. Io non mangio panini, sandwich, solitamente no. Dottor però, Ongaro, Flora è per lei l'ascoltatrice ideale, perfetta. Anche perché, come stava giustamente dicendo, insomma, fa parte un po' del mondo lavorativo suo e quindi mi pare che rispecchi effettivamente una certa cura e una certa attenzione. Se poi per di più durante la giornata, quando è fuori per lavoro, presta la stessa attenzione che presta quando è a casa, direi che Flora fa un ottimo lavoro. Dottoressa Viola, andiamo a guardare dentro al frigorifero, chiederemo naturalmente anche ai nostri ascoltatori come ripongono i vari prodotti, ma il frigorifero racconta di noi anche dal di fuori, post-it, messaggini, calamite, c'è un mondo di messaggi, ci sono famiglie intere che comunicano, no? Proprio attraverso i messaggi che si lasciano e spesso la parte più invitante della cucina è proprio il portello del frigorifero. Assolutamente, anche perché è una sosta obbligata. Tutti sappiamo che da lì passeremo sicuramente almeno più di una volta durante la giornata, quindi siamo sicuri che i nostri messaggi saranno trovati, non sempre sono messaggi alimentari, qualche volta però sono esplicite richieste anche di desideri, dimmi cosa vuoi da mangiare, dimmi cosa ti compro, dimmi cosa ti faccio, quindi ci sono anche delle coccole che passano attraverso il frigorifero. Il bigliettino più bello che ho trovato questa settimana a casa mia è di mia figlia che lasciava suo fratello, guarda cosa ti ho preparato, e lui ha trovato nel frigorifero il tiramisù fatto da lei apposta per lui, quindi è anche un veicolo di affetto. Che coccola! Salvo, buongiorno, da Milano, ci faccia entrare nel suo frigorifero, buongiorno. Buongiorno, ma innanzitutto ho notato che nessuno parla del reparto congelatore, che secondo me è molto importante. Bravo, quindi, Salvo, ne parli lei. Che cosa c'è nel suo congelatore? Nulla, nel mio nulla. C'è l'eco. In estate, quando preparo il gelato, ci metto il gelato. E basta, non tengo nulla di surgelato. Invece so che moltissimi italiani, come anch'io fino all'anno scorso, lo usano molto per metterci carni e altre cose del genere. Invece io uso molto la parte bassa nel cassetto, non mancano mai le carote in abbondante numero, non mancano mai i cavolfiori, zucchine, peperoni, qualche volta melanzana. E poi invece nel resto del frigo è pieno di vario tipo di frutta e altre verdure, tipo lattuga come verdure e altri le varie verdure di stagione. E poi come frutta c'è sempre almeno un ananas, una dozzina di banane, pomodorini, spesso quando riesco ad averli, quelli dalla mia Sicilia, perché appunto se l'accento sono siciliano. E poi la frutta, quella che trovo, insomma, quindi banane e ananas come roba. Banane, ananas italiana. E poi il resto frutta. E poi frutta di stagione. Ecco, nel mio frigorifero non alberga carne, né latticini, formaggi. Dottor Ongaro, quindi un frigorifero vegetariano. Beh, ha un'ampia rappresentazione di frutta e di verdura che va molto bene e diciamo anche che il congelatore, insomma, in realtà può essere molto utile, cioè se il congelatore diventa un modo per andare a fare la spesa soltanto in determinate giornate, rifornirsi di cibi sani e conservarli nel tempo, ricordiamo sempre che è uno dei metodi migliori di conservazione. Però direi che Salvo, da buon siciliano, predilige molto i cibi di origine vegetali ed è un'ottima abitudine. Ma è un ascoltatore, a proposito ci scrive subito, ma le banane vanno tenute in frigorifero, dottor Ongaro? Ma dipende dalla temperatura esterna, dipende da quanto le vogliamo mangiare mature o meno. Ricordiamo sempre che più la frutta è matura e più avrà un alto indice glicemico, quindi tutto sommato, anche se è più buona, non va mangiata troppo matura se possibile. Ma quando lei che ti staccate il frigidero, cosa aspetti quest'inverno su che vedeste? Ti metti un fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovare stanchi morti e sue, e non ti pensi a roba che te da parte mi tiro e vei facendo me, sapeva mai ti dovia cacciare la via quando torna da campagna ti modici un po'. Confessate, ditemi che cosa tenete nel vostro frigorifero, ma dite la verità. Santino ci chiama da Catania, Cristian da Treviso, Michele dalla provincia di Rovigo. Daremo subito a loro la parola, ma prima, dottor Ongaro, anticipiamo ai nostri ascoltatori che due di loro avranno la possibilità di essere seguiti proprio da lei nella distribuzione, nella scelta delle cose da mettere del frigorifero, e andiamo subito al nostro quizzettone. Che cosa ha preparato per noi oggi? Ma facciamo un piccolo test con gli ascoltatori, visto che tutto sommato le foto che stiamo vedendo non sono poi così male, no? E concordo col fatto che se uno va a vedere il frigorifero degli americani sicuramente è messo peggio. Proviamo però a vedere se ci sono, diciamo, tutte le competenze necessarie. Partirei proprio dalle verdure e dalla frutta e chiederei se è giusto o sbagliato mettere frutta e verdura nei sacchetti di plastica quando vengono riposte in frigorifero. 800 24 00 24, dateci la vostra risposta. Alle prime risposte esatte, alle prime tre risposte esatte, ma un po' commentate con dovizia di particolari, cioè dovete darci anche una spiegazione, daremo i libri del dottor Ongaro, Mangia che dimagrisci. Santino, buongiorno da Catania. Santino? No, sento un eco che forse sarà quella del frigorifero. Passiamo a Cristian che ci chiama da Treviso. Buongiorno Cristian. Sì, buongiorno. Io, mi sentite? Sì, noi la sentiamo bene. Sì, perfetto. Vado un po' controcorrente rispetto agli interventi precedenti dove erano molto tutti salutistici. Io purtroppo nel mio frigo, oltre a frutta e verdura che mangio con regolarità, ci sono anche alcune schifezze che talvolta sono... Bravo, Cristian! Quali schifezze tiene nel suo frigorifero? La prima che viene in mente è, tra frigorifero e congelatore, sicuramente la pizza surgelata con qualche birra, che soprattutto la domenica sera, magari con gli amici, ci vuole, perché tutta la settimana magari attenti a mangiare frutta e verdura, anche per lavoro in giro, ci vuole. qualche dolce ogni tanto ci scappa, si compra. Mm. E soprattutto rispetto a un ascoltatore che diceva quasi condannava il congelatore, io ce lo trovo molto importante, perché avendo un l'orto, sì, d'estate, dove la produzione ce n'è parecchio, chiaramente non riesco a mangiare tutta, mi congelo ad esempio soprattutto i pomodori e pian pianino poi riesco ad averli freschi o comunque del mio orto. D'inverno farsi un sugo di pomodoro fresco, anche se sono i pomodori congelati, è comunque buono, e quindi il congelatore... Quindi un frigorifero ricco. Dottoressa Viola, Christian ha detto, vado un po' controcorrente, e ha detto subito la schifezza, no? Una pizza surgelata, che non trovo affatto una schifezza, anzi, salva! Finalmente qualcuno però che confessa qualche elemento, insomma, meno impeccabile dal punto di vista nutrizionale. Ma io sono d'accordo, gli italiani sono molto più bravi, per esempio, degli anglosassoni e degli americani, ma sono convinta che ci sia anche qualche ghiottone che sta omettendo la sua testimonianza, o qualcuno che un pochettino mente, perché conosco frigoriferi italiani molto più grassottelli di quelli che vengono raccontati. Il frigorifero di Christian è un timido, è un frigorifero che vorrebbe trasgredire ma non trasgredire, dice poi del tutto, che arriva fino alla pizza ma poi si riprende sul pomodoro, e è un po' da vorrei ma non posso. Sono convinta che c'è chi sa fare meglio quanto a pulsioni trasgressive. Vediamo se sa fare meglio Michele, che ci chiama dalla provincia di Rovigo. Buongiorno Michele, benvenuto. Cosa Pronto, ci tiene? Buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi seguo ogni giorno. Bravo. Niente, Michele, questa qua è proprio telefonata che fa il caso mio in quanto a schifezze. Dicesi schifezze, ma per me sono godurie. Il motivo di aprire gli occhi ogni giorno, a partire dalla cioccolata, gelati nel congelatore, tutto quello che si può ingerire, che a sentire i dottori fa male, per me è motivo di vita. La verdura la mangio perché quando guardo la confezione so che sta per scadere, o se ho la verdura fresca so che non dura molto, quindi la mangio quasi per forza, ma tutto il resto è gioia, quindi ingerisco. Sono un po' sovrappeso, no, non dico mica di no, però la mia compagna dice che quando mangio la cioccolata sono più allegro e funzionale, tra virgolette. Quindi... E funzionale. Dottor Ongaro, questa cioccolata che rende Michele più funzionale? Beh, la cioccolata ne abbiamo parlato tante volte, non è una novità, sarebbe meglio sceglierla chiaramente fondente con poco zucchero, ma se Michele è felice così, cosa volete dire? Cioè, nel senso che questo è un tipico esempio di una persona che non ha ancora fatto una grande analisi sul proprio stile alimentare, è convinto che questo sia parte della gioia della propria vita, e ben sia, nel senso che non è che spetta al medico giudicare questo. Direi faccia attenzione a quel sovrappeso, se fa molto movimento lo contiene anche senza fare grandi cambiamenti nello stile alimentare. Direi che è perfettamente in linea, e anzi lo trovo oggi più carino che mai. E qua davanti a me Gianluca Nicoletti, che ha portato naturalmente la sua foto. Dobbiamo specificare il mio frigorifero, vuoi sapere? Certo. Non quello di famiglia. Sì, il tuo. Perché uno dei motivi di possibile divorzio fra me e mia moglie era la gestione del frigo. Io considero il frigo un obitorio. Ho un grande disprezzo per il frigo. Il frigo di casa normalmente è un frigo che apro e devo fare questa operazione di necrofilia, andare a trovare il formaggio incartato avanzato che è diventato verde, l'avanzo di sugo di una settimana prima. Le donne hanno un po' questa idea della conservazione, non so perché, sono retaggi di antiche pestilenze, di miserie, di fame arretrate. Finalmente mi sono fatto il mio studio, dove ho il mio angolo cucina, bello, carino, dove ho il mio frigo. Il mio frigo è stupendo. Innanzitutto non emana nessun odore. Odio l'odore di frigo, lo sento in tutta la casa. Il frigo mantiene un suo odore di morte dentro. Il mio frigo è perfetto. Allora, vuoi sapere la parte alta? Sì. Il freezer. Il freezer è la parte importante, il cuore, il sancta sanctorum. Perché lì sono le bottiglie di tequila e ci sono i bicchieri. Perfetto. C'è qualche gelatino. Ci sono dei ghiaccioli al limone e ci sono i gelati. Ricoperti. Quelli... Sì, e quelli ricoperti, sì. E c'è... quell'attrezzo con dentro quella gelatina blu, quello serve sempre, quando c'è un po' di mal di testa, il ghiaccio finto, sì. Quella cosa lì. Scendi giù, piano sotto, primo piano, ci sono tutti gli analcolici, Coca-Cola e lattina, Diet Coke, anche quella per chi ha queste fisime qua, tanto ecco, C'è una bottiglia di nocino fatto in casa, mi ha regalato un'amica mia. Nella parte laterale ci sono molto succo di mirtillo, adesso va tanto, tutte vogliono il succo di mirtillo. Quindi tu lo prendi per le tutte? Sì, a me fa schifo. Quindi a casa se andate a trovare Gianluca, sì, Nicoletti, offrire, no, ma è un posto del lavoro, viene gente, devo offrire ogni tanto, certo, qualcosa. E piace tanto il succo di mirtillo, il tè verde, un'altra di queste cose. E poi è colpa anche del dottor Ongaro. Sì, a me il tè verde fa vomitare, però lo tengo il tè verde. Sì. Perché non si sa mai. Ma posso metterci l'estate, il tè, quello lì, il pesca o limone, dai. Il tè verde dà l'idea di qualcosa, poi lo confezioni bene così. Poi cosa c'è? Scendendo giù c'è un sacco di birra, di vari tipi, quella sì. Scendendo giù c'è, adesso ci sono dei grappoli d'uva, a me piace molto l'uva, e nella parte bassa dove va messa la frutta è pieno di lime, perché io, sai, sono appassionato di margarita, e per il margarita è un componente importante il lime fresco. Tu dici, perché è vuoto il tuo frigo? Perché non mi piace tenere la roba in frigo, mi piace comprarla e mangiarla. Il massimo che sta in frigo sono quegli affettati confezionati, quelli dentro la busta. Sì, però li faccio scadere sempre, perché li tengo per riserva. Se viene qualcuno che... Ah, sopra ci sta anche il pane surgelato, qualche panino surgelato. Ogni tanto li butto via perché passano 3 mesi, dopo 3 mesi non so se ancora vanno bene. Poi li metto in forno, li sghiaccio, prendo la fettina di pancetta nella confezione, dicevo, vuoi un panino o qualcosa. Però sai... Sono più le volte che butto via perché scadono, mi dimentico. Ma basta, non c'è altro, non mi serve altro. Non c'è altro nel frigorifero di Gianluca Nicoletti. Ah, la cioccolata, sì. Però perché anche vedi che funziona, sì, però, la cioccolata. No, ma a me fa schifo la cioccolata da frigo. La cioccolata mi piace mangiarla un po' caldiccia. Da frigo diventa anche lì, c'è qualcosa come imbalsamata, viene fuori quel burro di cacao, quel velino bianco. Che la dottoressa Viola su Gianluca Nicoletti potrebbe scrivere un trattato. L'ho tenuto qui, chiuso, come in un frigorifero, dottoressa Viola. Devo dire che sarebbe veramente da pubblicare. Il profilo di personalità che viene fuori dal frigorifero di Gianluca Nicoletti è estremamente affascinante. Innanzitutto un frigorifero... Se le piace il mirtillo può venire quando vuole. Il mirtillo, soprattutto il tè verde, caro Nicoletti, devo dire. Però è veramente un frigorifero pronto a ricevere, pronto ad accogliere, pronto ad ascoltare, pronto a condividere. Sì, però non si mangia nulla, Non si mangia nulla perché evidentemente con un frigorifero così poi porti fuori gli amici, vai a mangiare in giro, ti incontri ovunque, ma è un frigorifero pronto ad incontrare, pronto a condividere. Ed è verissimo quello che diceva Nicoletti prima, cioè le donne che hanno sempre in frigorifero le cose quasi ammuffite, scadute, quasi da buttare, la donna si mortifica anche nel cibo. Se c'è qualcosa di avanzato in casa lo mangia sempre la donna, se c'è qualcosa di scaduto è la mamma di famiglia che se lo mangia. Certo, non si può mica buttare. Non si può mica buttare, il frigorifero di Nicoletti è androgino a tutto campo, è un frigorifero maschile, manca soltanto il sigaro toscano, per esempio. Non lo guardi, posso dire, dottoressa, l'ho fumato fino all'età di 38 anni, poi mia moglie rimase incinta e fece questo fioretto, non lo fu mai più. Dottor Ongaro, non ha nulla di nutrigenomico Nicoletti, anche se molti ascoltatori mi scrivono, ma non era vegano Nicoletti, quando mai? Ma no, una cazzata vegano? Che avevo detto così, per prendere in giro i vegani. È un perfetto seguace di essere benessere, davvero. Ma io sto bene però. L'unica cosa che salverei è il lime di questo frigo. Ma il margarita senza lime non si può fare. Ha ragione, io sono stato tanto a Houston ed è effettivamente molto Si sta buona, sistemando un po' la camicia perché non vuole vedere non vuole farmi vedere, anzi mi sta facendo vedere la pancia nuda e pelosa, cercando di tirarla indietro, lì è il margarita. È acciaio. È acciaio. Allora, voi dove le tenete le verdure, dottor Ongaro? Si tengono nei sacchetti, si tengono nude, buttate lì nel sacchetto, come le tieni tu? Dipende, intere o spezzettate? Dai, adesso non fare il raffinato, la verdura intera. Ma la verdura, quando la compro la mangio, non la tengo in frigo. Questo c'ha ragione però. È orrenda, le insalate in busta, prova a aprirle, senti quell'odorino di bar appena aperta. L'insalata la devi lavare, sennò non la mangi. Allora, inviteremmo il nostro amico Gianluca a partecipare ad una puntata di Mangia con me. Una volta tanto non vengo a parlare di prostata. Va bene, ma perché anche noi potremmo anche aiutarti attraverso l'alimentazione a risolvere eventuali problemi. Vero, dottor Ongaro? Facciamo miracoli. Ma sono sicuro che dirà che non ha problemi. Ma certo, perché quando si no, parla guardi, è una vecchia storia con Nicoletta. Tra me e lui sulla sono prostata. 10 anni che scherziamo su questa cosa. Verrà il giorno che tristemente verrò qui come caso clinico. Noi vogliamo evitarlo, però vogliamo frequentarti più spesso. Grazie a Gianluca Nicoletti per essere stato con noi, per averci aperto le porte del suo frigorifero. Voi intanto chiamate l'800 24 00 24 per rispondere alla domanda, al quiz del dottor Ongaro: come tenete queste verdure nude, nei sacchetti di carta, nei sacchetti di plastica, come vanno tenute e dove. Intanto in linea con noi abbiamo la dottoressa Sara Farnetti, buongiorno. Buongiorno. Internista e nutrizionista, autrice di Tutto quello che sapete sul cibo è falso. Dottoressa Farnetti, senza svelare la risposta della verdura, ci fa così una lista delle cose che dovremmo tenere nel nostro frigorifero? Beh, io invito intanto ad aprire questo frigo e a sincerarci che questo frigo sia multicolore. Quindi se lo apriamo e lo vediamo un po' troppo triste, sicuramente alla salute non fa bene. E quindi coloriamolo sempre di verdure, frutta, viola, arancio, giallo, perché sono i colori della salute. E quindi non devono mancare le verdure soprattutto e poi anche la frutta. Perché? Perché se noi poi parliamo di mangiare bene, ma arriviamo a casa stanchi e tardi e non abbiamo nulla nel frigo, è un po' difficile poi aderire a qualsiasi cosa andiamo a raccontare o a imparare leggendo, per carità, libri oppure ascoltando chi ce lo insegna. Quindi dotiamoci dello strumento principale, che è quello di riempire il frigo con le cose giuste per fare le combinazioni di cui parliamo sempre, furbe. Quindi la verdura cruda, perché se mangiamo una proteina la sera, che può essere la carne, il pesce, anche se ci facciamo due uova, che è un alimento che possiamo tenere in frigo e si conserva bene, abbiamo bisogno della verdura cruda, quindi proteine, carne, pesce e uova da associare con le verdure crude, il finocchio che adesso comincia a essere di stagione, arriveranno le verdure amare, può essere un carciofo crudo tagliato a carpaccio, oppure verdure amare da cuocere, perché se ci prepariamo un piatto di pasta veloce perché l'abbiamo in dispensa e quello lo lasciamo lì qualche mese, cioè la pasta, intendo i cereali, abbiamo sempre bisogno, perché il nostro corpo ce lo chiede, di associare un piatto di pasta a una verdura. Perché no, d'inverno qualcosa di caldo ci fa piacere, una verdura amara semplice può essere l'endivia belga, la possiamo mettere su una piastra, sì, e fare certo. Ferri, un radicchio, oppure sempre molto semplicemente possiamo stufare una scarola, è così buona la scarola passata nella padella con qualche oliva. Ma se non abbiamo le verdure, è un po' complicato, il nostro piatto piange e alla fine il nostro corpo anche ci chiederà un conto. Se teniamo la frutta non c'è bisogno di un eccesso di frutta, perché la frutta naturalmente si conserva meno, però per chi va veloce e ha bisogno di fare la spesa magari purtroppo ahimè una volta a settimana può tenere dei kiwi, quelli si mantengono. Il kiwi è un alimento che al mattino ci aiuta come lassativo, sì. Reintegra i minerali se lo mangiamo la sera perché è ricco di potassio e poi sono ricchi di vitamina C, quindi assolutamente importante. Puntiamo ad avere della frutta e della verdura sempre a disposizione da abbinare, soprattutto per utilizzare alla sera quando arriviamo a casa affamati, magari siamo un po' a dieta, sgranocchiare una verdura per alcuni non ha grande appeal, ma calma un po' la fame. Grazie dottoressa Farnetti, ricordo il titolo del suo libro Tutto quello che sapete sul cibo è falso, di cui trovate alcuni dettagli, una pagina gentilmente concessa dalla dottoressa Farnetti proprio sulla pagina di Essere Benessere, sul nostro profilo Facebook. Grazie dottoressa Farnetti. Dottor Ongaro, i nostri ascoltatori dovevano rispondere al suo quizzettone, devo dire che non sono arrivate risposte, ma tante domande su come mettere e disporre gli alimenti, ma risposte dalla regia, c'è qualcuno che si è candidato al quizzettone? Sì, mi dicono Enza che ci chiama da Bari. Enza, buongiorno, mi scusi. Buongiorno a voi. Avevo perso In mezzo a tutte queste telefonate la richiesta della risposta al quizzettone. Abbiamo 30 secondi. D'accordo. Enza. Allora, io non so, faccio così, l'ho scoperto empiricamente. Metto i sacchetti effettivamente in plastica, quelli veramente per la verdura da mettere in freezer, li metto in frigo con gli ortaggi, la verdura dentro, aperti. E quando si è raffreddata la verdura a temperatura diciamo di frigo, li chiudo, così evito che si formi diciamo quella condensazione. Enza, lei parla di verdura verdura cotta? No, cruda. Dottor Ongaro, abbiamo 10 secondi e poi li chiude. Visto che abbiamo 10 secondi, la cosa migliore è non usare i sacchetti di plastica, perché fanno da termoisolante, rimane dentro più umidità, la verdura e la frutta marcisce prima e quindi vanno messe direttamente in frigo senza sacchetti. Mandatemi le foto dei vostri frigoriferi, il dottor Ongaro gli sbircerà, farà dei commenti. Grazie dottoressa Viola per essere stata con noi. Dottor Ongaro, grazie anche a lei. Alla prossima, e noi invece ci vediamo domani, magari con i nostri frigoriferi. A domani.